Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano sul terrorismo, la nostra democrazia ha dimostrato di sapersi difendere senza snaturarsi. Berlusconi di nuovo in tribunale, non ricordo di aver conosciuto Mills, dice. Monito del capo dello Stato anche sull'Europa, insoddisfacente come soggetto di politica internazionale. A Radio 24 la denuncia di un sacerdote, più di 60 migranti lasciati morire in mare, fra loro molte donne e bambini. Vegas all'assemblea Consob, le nostre leggi favoriscono le scalate ostili. Rifiuta di dare una sigaretta, finisce in ospedale in prognosi riservata, è successo a Milano. Buongiorno dalla redazione di GR24 e buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano la giornata delle vittime del terrorismo, celebrata oggi in tutto il paese. Il discorso di Napolitano al Quirinale, sentiamo cosa ha detto il capo dello Stato con Alessandra Schepisi. Sì, rendiamo onore ai magistrati e lasciamo da parte le polemiche. È un'appassionata difesa delle toghe e del loro ruolo. L'intervento di un capo dello Stato particolarmente commosso in occasione della giornata delle vittime del terrorismo dedicata quest'anno ai magistrati uccisi servitore dello Stato, così dice Napolitano, ai quali va la nostra inestimabile gratitudine, la cui lealtà alle istituzioni fu decisiva nella lotta al terrorismo. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Abbiamo dimostrato di essere una democrazia capace di difendersi senza perdersi, capace di reagire ad attacchi e minacce gravi senza snaturarsi. Occorre parlare responsabilmente della magistratura e alla magistratura, ammonisce Napolitano, riferimento indiretto agli ultimi attacchi del Premier. Il capo dello Stato punta anche l'indice contro i dissennati manifesti affissi a Milano che accostavano i PM alle Brigate Rosse, lancia un appello alla collaborazione tra le istituzioni per realizzare le riforme necessarie e torna infine sulla vicenda Battisti per sottolineare come lo stop all'estradizione sia incomprensibile. E dal Quirinale è tutto, a voi la linea. E grazie ad Alessandra Schepisi. Le parole del Presidente della Repubblica sono inequivoche. A nome dell'intera magistratura dico grazie a Napolitano. Così il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara ha commentato il discorso del Capo dello Stato. E stamattina Berlusconi è tornato in tribunale a Milano, questa volta per il processo Mills. Ci colleghiamo con Raffaella Calandra. Rende onore ai magistrati uccisi ma invoca anche una commissione d'inchiesta sui PM di Milano, condanna i manifesti col paragone tra BR e procure, è in debito dice, ma torna ad attaccare le toghe che usano il diritto come un'arma. Nei corridoi del Tribunale di Milano a metà strada tra l'aula del processo Mills dove siede quel PM da lui più volte bollato come un cancro e quella lapide dove invece più tardi ci sarà la cerimonia per le toghe cadute, Silvio Berlusconi risponde con poche parole anche alla nostra domanda sul richiamo alla legalità di Napolitano. Sentiamo. Ne abbiamo già fatte tantissime dal 14 dicembre in qua, prontissimi a farne un'altra. La maggioranza che c'è è una maggioranza solida e ha buoni numeri. Lei non irritava le parole di Napolitano? Non mi irrito mai. Quando i vostri giornali parlano di ira del presidente Berlusconi, io è un sentimento che non ho mai conosciuto. Come abbiamo sentito dunque il Premier ha parlato anche di un'eventuale verifica di governo ma non ha voluto però rispondere alla domanda sulle conseguenze ad esempio di una sconfitta elettorale alle amministrative di Milano. Quanto invece all'argomento giustizia non è vero che attacco i giudici, aggiunge il Premier che definisce invece eroici quelli caduti negli anni di piombo ma come dicevamo prima ha chiesto anche una commissione d'inchiesta per i processi che considera surreali e ridicoli a cominciare da quello Mills. È il peggiore in calza Berlusconi, non ho mai conosciuto quell'avvocato. Il processo sta ora proseguendo con la deposizione della consulente del PM Laker Sicla, vedremo se il PM al termine dell'udienza vorrà ancora commentare gli avvenimenti di oggi e per ora al Tribunale è tutto. Grazie anche a te allora Raffaella Calandra e la giustizia è anche al centro del dibattito politico con qualche presa di distanza di Bossi dal capo del governo. Elisabetta Ferito. Sì, proprio così, un distinguo ma anche forse un modo per rinsaldare il legame con Giulio Tremonti, da sempre il ministro di riferimento della Lega, il leader del Carroccio Umberto Bossi si differenzia nell'accusa del Premier Silvio Berlusconi ai PM, in sostanza la legalità è essenziale, dice Bossi, i magistrati non sono un cancro, ma sentiamo proprio il senatore. Ma se tutte le cose devi chiedere a Berlusconi, io non penso quelle robe, penso che ogni tanto c'è qualcuno che rompe le scatole, questo sì, però... non sono tutti uguali. I rapporti con il PDL alla vigilia delle elezioni amministrative sono buoni, dice Bossi, anche se nella diversità come quelli sulla Libia. Ma poi dà ragione al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla legalità, altrimenti spiega Tim Pantani. Ma anche il luogo dove parla Bossi ad insospettire, l'unico che non partecipa al comizio di sostegno del sindaco di Milano, Letizia Moratti, ma insieme a Giulio Tremonti va a Bologna durante un comizio di sostegno al sindaco Manes Bernardini, candidato della Lega. E l'asse tra il Carroccio e Giulio Tremonti è sempre più saldo e a farne le spese sembra proprio Silvio Berlusconi. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. E Napolitano questa mattina ha parlato anche di Europa, lo ha fatto con un videomessaggio al Festival dell'Europa in corso a Firenze. Le sue sono state parole piuttosto pesanti. Gigi Donelli da Firenze. Sì, buongiorno Piera, un saluto agli ascoltatori. Effettivamente qui proprio vi parlo da Piazza della Signoria, che pensate si è trasformata per i 4 giorni in Piazza Europa, in occasione proprio del primo Festival dell'Europa. Ecco, qui dopo un fine settimana dedicato ai festeggiamenti, oggi si è aperto il dibattito politico e dunque l'intervento, il videomessaggio del Presidente della Repubblica Napolitano, che sentiamo in un breve passaggio. Varrebbe la pena di mettere in particolare l'accento sullo stato, io credo, insoddisfacente dell'Unione come soggetto di politica internazionale. Ecco. E basta questo breve frammento per cogliere quanto Napolitano abbia decisamente voluto mettere il dito nella piaga, una piaga che è condivisa peraltro da chi all'Europa è legato. L'Unione Europea, dice, di fronte alla crisi non è stata all'altezza e questo va detto con estrema franchezza. È evidente che sono parole in qualche modo di una critica non solo costruttiva ma persino affettuosa in un sistema che il Presidente insomma sostiene tradizionalmente, una critica davvero europeista a cui di fatto si è associato il Presidente del Parlamento Europeo, il polacco Jerzy Buzek, il quale ha detto: dobbiamo in questa fase mostrare solidarietà tra gli Stati membri e dobbiamo anche continuare rapidamente con le riforme strutturali in un processo che ha portato enormi benefici all'intero continente. Per ora da Firenze è tutto. Grazie Gigi. Ecco, le agenzie battono proprio ora la notizia che l'Unione Europea, sono delle affermazioni della portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. L'Unione Europea, dice la Ashton, finora ha reagito in maniera sempre molto decisa alle crisi del Nord Africa e alle sommosse nel mondo arabo. La nostra reazione è stata decisa, così come chiaramente dimostrato dalle posizioni e dalle decisioni prese dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea. Per quanto riguarda Gigi, ci ritroveremo nella seconda parte di GR24 perché ci racconterà meglio di cosa si tratta, come si svolge questa festa dell'Europa a Firenze. Noi invece andiamo a Lampedusa perché intanto purtroppo non si fermano gli sbarchi. Come sapete, ieri solo una catena umana dei soccorritori ha consentito a circa 500 migranti di non morire in mare. Sono stati tirati fuori dall'acqua uno ad uno. Purtroppo però si è saputo nelle ultime ore che, contrariamente a quanto sembrasse in un primo momento, ci sono state delle vittime. 3 cadaveri sono stati infatti recuperati sotto il barcone che si era incagliato sugli scogli. E una 60ina di migranti africani sarebbero stati lasciati morire di fame e di sete nel Mediterraneo dopo che unità europee della NATO avrebbero ignorato le loro richieste di aiuto. Racconta così a Radio 24 padre Moses Zerai, che avrebbe lanciato vari appelli sia alla NATO sia all'Europa perché intervenisse. Sentiamo padre Moses Zerai al microfono di Cristina Carpinelli. Queste persone, da quello che ci hanno riferito, il sabato stesso è arrivato un elicottero che gli ha dato acqua da bere e biscotti da mangiare, dopodiché è sparito nel nulla. Loro si aspettavano che successivamente sarebbe arrivato una motovedetta o una nave a prenderli, invece non è successo nulla e da lì è iniziato il loro calvario che per 15 giorni hanno vagato. E hanno incontrato anche una nave portaerei, sicuramente della NATO, perché non c'è nessun altro nave portaerei che girano da quelle parti, quindi anche quella nave li ha visti, però non ha mandato né i soccorsi, tantomeno non li ha soccorsi lei stessa. Padre Zerai, non è assurdo che 72 persone, tra loro c'erano anche bambini e donne, siano morte così? Soltanto è assurdo e anche, anzi è crudele che ciò è avvenuto sotto gli occhi di tutti, perché ci dicono lì non è possibile che tu non vieni avvistato, perché c'è un controllo a tappeto da diverse navi della NATO, per cui non può non essere incrociato da qualcuno. Chi li ha lasciati abbandonati a se stessi ha commesso un reato di omissione di soccorso, quindi non c'è, sono giri di parole. Eppure loro hanno fatto, hanno segnalato in tutti i modi possibili, finché avevano il telefono via telefono, quando non hanno avuto il telefono, quando vedevano la nave facevano dei segni con le loro taniche vuote che, per segnalare che non avevano acqua, oppure facevano vedere il bambino, alzavano i bambini per dire guardate che abbiamo i bambini, aiutateci, nulla. Fino adesso nessuno ha ammesso che li ha visti, nessuno. Tutti dicono non sappiamo, invece... Voi adesso avete intenzione di fare qualcosa anche con i familiari di queste persone? Vogliamo prima avere testimoni che siano al sicuro, dopodiché possiamo procedere. Obama sul blitz in cui è rimasto ucciso Bin Laden. Una delle decisioni più difficili della mia vita, racconta. Sentiamo. Catturare Bin Laden è il primo passo per dare il colpo di grazia ad Al-Qaeda. A una settimana dall'uccisione del ricercato numero uno, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in un'intervista all'emittente americana CBS, torna su quelli che definisce i 40 minuti più lunghi della sua vita e fa cadere ogni dubbio sulla sorte dello sceicco del terrore. We are absolutely certain this was him. There is no doubt that we killed Osama Bin Laden. Non c'è alcun dubbio, Osama Bin Laden è morto, dice Obama. Quella che ho preso è stata una delle decisioni più difficili da comandante in capo. Secondo il presidente americano, per sconfiggere Al-Qaeda bisogna catturare anche al-Zawahiri e il Mullah Omar, che per le fonti dell'intelligence statunitense potrebbe nascondersi a Karachi. E proprio dal Pakistan arrivano le prime voci ufficiali del governo sulla dinamica del blitz di Abbottabad. Il ministro degli interni di Islamabad, Rehman Malik, ha riferito di essere stato informato 15 minuti dopo l'inizio e di non sapere quale fosse l'obiettivo dell'attacco. Sull'argomento interverrà oggi il premier Yusuf Reza Gilani. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo all'estero. Il governo egiziano ha annunciato il pugno di ferro contro chi alimenta le tensioni religiose. Ieri, come sapete, nuovi scontri e nuovi morti, 12 le vittime, fra musulmani e copti. Noi ci colleghiamo con il Cairo, con il nostro Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, dicevamo che il governo egiziano ha annunciato il pugno di ferro. Sarà sufficiente? Non è detto, perché adesso sono a pochi metri dalla piazza, dalla strada dove c'è la televisione di Stato, dove tutti i giorni si svolgono manifestazioni, a una specie di succursale di Piazza Altair, dopo che Piazza Altair è stata ripulita. E ci sono adesso i cristiani che di tanto in tanto lanciano sassi, di tanto in tanto chiedono la pacificazione, ma polizia e esercito stanno come sempre a guardare. Il problema appunto di quello che è successo ovviamente è una tragedia per l'interconfessionalità di questo paese, ma una tragedia anche per la primavera araba, perché manca l'ordine in questo paese. Già sta succedendo anche in Tunisia, dove il primo ministro ha minacciato di non riuscire a fare le elezioni di luglio se la piazza non torna calma. E qua in Egitto c'è sicuramente una drammatica diminuzione della presenza della polizia, oramai screditata, e l'esercito ovviamente tende a non intervenire, non solo perché non ha i mezzi tecnici, ma anche perché politicamente tende a restare al di fuori da quello che sta diventando un piccolo quotidiano caos. Quindi, insomma, una soluzione a breve non ci si può attendere, ecco. Ovviamente tutti i gruppi religiosi e tutti i leader politici, tutti gli intellettuali sui giornali lanciano programmi di riappacificazione, di unità egiziana. Il problema è che invece per strada, nella piazza, nei quartieri, invece la separazione fra copti e musulmani e anche il distacco gli uni dagli altri si fa sempre più evidente, sempre certo, più palpabile. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore al Cairo. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato delle parole, abbiamo sentito le parole di Napolitano sul terrorismo. La nostra democrazia ha dimostrato di sapersi difendere senza snaturarsi, monito sempre il capo dello Stato all'Europa, insoddisfacente come soggetto di politica internazionale. Poi ci siamo collegati con Palazzo di Giustizia a Milano, perché Berlusconi è tornato in tribunale. Non ricordo di aver conosciuto Mills, ha detto. E ora invece ripartiamo dall'assemblea della Consob, dalle parole del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, qui accanto a me, Paolo Piacenza. Buongiorno Piera. Alle prese con la sua prima relazione da presidente della Consob, l'ex sottosegretario all'economia Giuseppe Vegas ha puntato soprattutto sul binomio semplificazione ed efficacia. La prima sottolineatura ha riguardato proprio il sistema delle regole, che ha detto va semplificato calibrandone meglio l'attuazione, mentre sul piano delle sanzioni ha indicato la necessità di introdurre un principio di priorità per punire con severità e rapidità soprattutto i comportamenti più gravi. Vegas ha inoltre sottolineato il problema degli assetti proprietari del nostro mercato azionario, che ha detto resta poco sviluppato e caratterizzato da concentrazione di potere. Prudenza invece sull'apertura delle nostre società a investitori esteri e sugli effetti dei meccanismi di difesa del nostro sistema. Ascoltiamo le parole di Vegas. Da sempre la legislazione italiana ha fortemente privilegiato la contendibilità, limitando le possibilità di difesa delle società a fronte di scalate ostili. L'effetto indesiderato è stato quello di accentuare la chiusura degli assetti proprietari delle imprese. Infine, una sottolineatura sulla scarsa presenza della nostra borsa di medie imprese. Vegas ha riconosciuto che c'è un problema di costi e di scalini normativi, ha proposto la rimodulazione dei costi di quotazione. Dopo Vegas sono intervenuti l'amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni in qualità di deputy president del London Stock Exchange e una studentessa dell'Università Bocconi. Molti gli apprezzamenti per la relazione del presidente di Consob, dalla leader dell'industriale Emma Marcegaglia alla D di Intesa San Paolo Corrado Passera. Va infine registrata una frase del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha fatto il punto sull'attuazione della norma sull'attrattività del business nell'area di Milano. Sull'operazione Parmalat, il ministro dell'economia ha detto che il bilancio non è negativo, li abbiamo costretti, ha detto, a un'OPA totalitaria senza colpo ferire. Già questo è un risultato concreto ed è tutto. E grazie al nostro Paolo Piacenza. Ora sentiamo invece come vanno le borse. Deborah Rosciani. Buongiorno, parte male la settimana in Europa, gli indici sono tutti in calo, perdono circa un punto percentuale, Milano, Parigi e Francoforte, perde un po' meno Londra, quasi mezzo punto percentuale, ma tiene banco ancora la questione greca dopo le indiscrezioni circolate nel fine settimana che addirittura davano allo studio un'ipotesi di uscita dall'eurozona da parte appunto del governo ellenico del paese. Una settimana di tempo sarà nella riunione dell'Eurogruppo di lunedì prossimo che i ministri finanziari dovranno trovare la soluzione definitiva per tamponare la crisi greca, lo scrive l'agenzia Radio Corriere Il Sole 24 Ore. La via d'uscita prevederebbe un nuovo sostegno europeo a fronte di ulteriori misure di aggiustamento economico e del rafforzamento del programma di privatizzazione. Intanto di tutto questo ne risente pesantemente anche il rapporto euro-dollaro. L'euro fa fatica a tenere la soglia di 1,44 sul biglietto verde. Un'occhiata rapidissima ai migliori titoli di Piazza Affari questa mattina: Fiat Industrial più 1,66, Exor più 1,7, STM in rialzo di un punto, quindi vedo che è la galassia Fiat in questo momento ad essere particolarmente gettonata fra gli operatori. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Invece noi torniamo a Firenze con Gigi Donelli per la festa dell'Europa. Allora Gigi, abbiamo già sentito le parole di Napolitano, raccontaci meglio invece come si svolge la festa fiorentina. Sì, soprattutto la prima cosa da ricordare è che veramente questa piazza straordinaria, che è Piazza della Signoria, come vi dicevo, per questi 5 giorni è Piazza Europa. Io sono qui in questo momento, qui ci sono dei padiglioni, il padiglione delle nazioni, il padiglione dell'Europa, i padiglioni soprattutto dei giovani. È ovvio che se c'è uno diciamo dei marchi di successo della storia europea è quella di Erasmus, e magari qualcuno conosce anche Comenius e gli altri progetti di formazione. Ecco, questi sono diciamo dei punti certi, e il Festival d'Europa è anche un'occasione proprio per gli studenti. Ci sono moltissime scuole in gita oggi che vengono a fare domande, a conoscere questi meccanismi. E poi ci sono delle novità come l'Erasmus per le imprese, che è stato lanciato nel 2008 ma che comincia a prendere forma solamente in questi mesi, e che di fatto non è rivolto ai giovani ma ai giovani imprenditori. Questo vuol dire che a qualsiasi età uno può aderire a un percorso di formazione e di sostegno attraverso l'Unione Europea. Grazie Gigi, grazie a Gigi Donelli, che continuerà a raccontarci dunque la festa dell'Europa in corso a Firenze. La squadra mobile della Questura di Milano, insieme ai colleghi di Varese, ha arrestato ieri sera il latitante Marcello Crivaro, calabrese 41enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati legati all'uso di stupefacenti. L'arresto dell'uomo, legato all'andrangheta, è stato eseguito a Tradate, in provincia di Varese. Ha rifiutato di dare una sigaretta ed ora è in ospedale in prognosi riservata. È accaduto ieri sera a Milano ad un 31enne, mentre era nell'area parcheggio nei pressi della metropolitana di Cascina Gobba. È stato avvicinato da uno sconosciuto che appunto gli ha chiesto una sigaretta. Al suo rifiuto l'uomo lo ha colpito con una coltellata in pieno petto. Ci trasferiamo oltreoceano, tiriamo un po' il fiato per l'NBA e una clamorosa eliminazione. Dario Ricci. Sì, buongiorno. Inseguivano il terzo titolo consecutivo, ma i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant si trovano ora fuori dai playoff NBA. La semifinale ad ovest finisce 4-0 per i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki. Clamoroso il successo dei Mavericks in gara 4, 122-86, 36 punti di scarto con 32 punti di Jason Terry, fenomenale dalla linea dei tre punti con uno straordinario 9-10, ma da evidenziare anche il 6-6 da 3 di Stojakovic. Nei Lakers appena 17 punti di Bryant, espulsi anche Bynum e Odon, così come in gara 2 era stato espulso Ron Artest. Potrebbe essere questa la fine del ciclo dei giallo-viola, anche perché il leggendario allenatore Phil Jackson, dopo 10 titoli NBA, 9 da head coach e 1 da giocatore, ha preannunciato il ritiro. Staremo a vedere se poi nelle prossime settimane confermerà questa intenzione. Intanto Lakers fuori dalla corsa per il titolo NBA. E per ora è tutto. Grazie anche a Dario Ricci, vi lascio allo speciale Giro. GR24 torna invece alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.